E allora proseguiamo atti e misfatti e parliamo dell'appuntamento del Block Camp di Torino. No? Sì. Un 3 giorni che verrà appunto, che si sta organizzando per dalla 28 al 30 ottobre, un incontro che vuole mettere in relazione tutte quelle che tutti i gruppi femministi e lesbici che si trovano a fare politica anche sul web. E quindi è un evento che nasce da un'idea di blogger femministe e blogger dissentori che costruiscono diciamo già una rete di attivismo antisessista nel web, quindi diciamo si incontrano lì, ci si incontrerà quindi a Torino presso la Scatasuna, che è un centro sociale di Torino. Nasce un po' dall'esigenza anche di dall'incontro dell'hack meeting che c'è stato a luglio, e un incontro che appunto ormai decennale, che vede un incontro di realtà che lavorano con la tecnologia e che cercano di utilizzare la tecnologia per non solo intessere relazioni ma per fare politica. Il modo ovviamente è tutto da inventare, perché è una realtà, anche un modo di comunicare che è nuovo. In realtà in questi ultimi 2 o 3 anni sono fioriti blog femministi che vedono appunto portare la voce di donne lesbiche da parte di molte realtà di tutta Italia, in realtà non solo di tutta Italia, però questo ci interessa in questo momento, e non penso che sia anche rivolta soltanto a una cosa nazionale, anche se ovviamente poi ci vede, no, non credo. La blogsfera diventa sempre più importante anche per le rivoluzioni che ci sono state, come abbiamo visto, e come anche i social network. Questo ha bisogno ovviamente di una riflessione, e di una riflessione anche da un punto di vista di genere, perché ovviamente ci sono gli stessi attacchi, il cyberstalking non è una cosa che appunto il web non è così staccato dalla società e quindi dagli stereotipi, che anzi viene contaminato nella comunicazione e quindi nei contenuti, come anche nelle forme e nelle dinamiche. Quindi come proteggersi, come fare e come crearsi in modo di autodeterminarsi attraverso la comunicazione online, che appunto c'è un punto di vista di informazione, ma c'è anche un punto di vista di comunicazione e quindi di riempimento dei contenuti. Quindi sì, la rete, come il resto, come la crisi, come dicevamo prima, non è neutra assolutamente. No, non è neutra. Poi mi sembra particolarmente interessante comunque incontrarsi dal vivo, perché poi questi blog appunto che aleggiano senza vedersi, i corpi che si uniscono in un incontro fanno sempre bene. E il soggetto cyber non è così staccato da appunto il concetto natura, no. Tecnologia, natura, artificio, non bisogna mai perderlo di vista. No, infatti, quindi la cosa interessante è che oltre a mandare i contributi, comunque ad andare lì in questi 3 giorni, si può anche iscriversi alle mailing list e quindi organizzare insieme alle altre le 3 giornate. Questo mi sembra una cosa. Questo è quello, infatti, quello che dicono, cioè che invitano a fare, appunto questo. Ci sono stati già 2 incontri, se non sbaglio, in cui appunto si sta. Brigazzi, siamo un po' all'ultimo. Bisogna che ci attiviamo tutte. E comunque appunto è un evento completamente auto-organizzato, dove si possono proporre comunque delle cose e poter lavorare un po' su. Ti agiti molto e quindi il tuo microfono frigge. Frigge. Immobile frigge. Ma frigge come me. Esatto. È ovvio, anche lui ti rispecchia nel corpo. Il microfono, il prolungamento appunto. Già dei corpi. Stai ferma però, che non si sente. Va bene, allora con questa ventata Feminist Blog Camp, ve lo ricordiamo, sì, volevo dire 28, 29, 30 ottobre a Torino, a Scatasuna, evviva comunque, poi perché là è importante farci una capata. Magari diamo il blog dove... Ah, sì, diamo anche riferimenti che mi sembra importante. Feministblogcamp.noblogs.org, lì troverete tutte le informazioni necessarie anche per trovare un posto per dormire, partire tutte insieme, fare una macchina, insomma. Esatto, comunque tradurre quello che abbiamo detto, che magari non si è capito bene, può essere pure quello. Oppure andare in bicicletta. Va bene, allora noi atti e misfatti, un po' di musica e poi vai con altri appuntamenti. Un che ci metti, Olga? Che non ci fai ascoltare? Sopravviviamo. Just do what you need. Zap mama, zap mama. Vabbè, un po' vecchiotta. Olga, sei già friggi col microfono. Non si sente la musica. Guarda, vabbè, lasciamo perdere. È bellissima. Questa canzone è al microfono. Qui le polemiche non ci piacciono, per favore. Vai, musica. Feel the day, feel the night, make me cry, take a break.